Friuli nel mondo, 234esima trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ottavio Valerio. Il gruppo corale Buie di Buia. Forse il Friuli è la regione italiana che ha elevato a maggior dignità il canto popolare. La squisitezza del gusto nella forma e nel contenuto sempre estremamente curati, la varietà e l'originalità dei temi che ricevono ulteriore levigatezza e splendore dalla perfetta costruzione armonica conferiscono al canto friulano una purezza e una nobiltà non molto frequenti nel vasto campo della musica popolare. La gente friulana ama profondamente la sua terra, il suo focolare, le sue tradizioni ed è dotata di alto spirito musicale. Ma la sua terra, specie nelle prealpi e alpi carniche, pur così vivide di splendente bellezza, non offre molte possibilità di lavoro e quindi di esistenza. Il friulano è così costretto ad emigrare ed è per questo che nei suoi canti, frequentemente nei versi e quasi sempre nella musica, si insinua l'accorato motivo del distacco e della lontananza. Sono particolarmente sentimenti di tenerezza soffusa di malinconia e di dolce nostalgia quelli che scaturiscono limpidi e incisivi dalla melodia di questa terra. Ai numerosi canti tradizionali se ne sono aggiunti in epoche varie moltissimi altri d'autore, in generale pienamente conformi alla tradizione. Con ciò si spiega il sorgere anche di nuovi gruppi corali, formati per maggior parte da lavoratori, in ogni piccolo o grande centro del Friuli che abbia la fortunata ventura di avvalersi di un appassionato cultore e istruttore di canti religiosi o popolari. Perciò, oggi è la volta del gruppo corale Buie di Buia che si presenta a voi, cari amici emigrati, con una fiorita di canti non ancora entrati nella vasta conoscenza popolare. Nostalgie furlane di Turco. L'angoscia del partire e del tornare, rinnovantesi ad ogni stagione, è trasfusa in questo canto con piena sincerità d'accento, sia nelle parole che nelle note che le rivestono. Oh. Lis Silis è una delicata romanza musicata dal carnico Luigi Vritz, scomparso alcuni mesi or sono. Benemerito, insistente propugnatore dell'insegnamento musicale nelle scuole, direttore di complessi bandistici e corali e raccoglitore sensibile di antichi motivi musicali popolari, soprattutto nei dispersi borghi della sua Carnia. In La Messera, sempre di Luigi Vritz, c'è tutto il rimpianto per la fanciullezza lontana e per la giovinezza che non ritorna. Mi sin schlappa mir cu. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ottavio Valerio.